vagabondo si gode traffica sprezzando i rischi. Affonda l'ancora all'avventura. Big punch o whisky? Whisky. Ed è bella la sposa.